perché dalla mia vita senza te. Se solo avessi 2 minuti in più, io fermerei il tempo in quel momento per abbracciarti come non ho fatto mai. Io non l'ho fatto mai. Colmo di fotografie. Padre,